giornale radio delle 14. Allora, comincerei da questo 1-1 al momento tra Novara e Lazio, che sta maturando sul campo novarese, ma soprattutto tornerei a ieri sera, proiettandoci già sulla serata di Coppa Campione di oggi. In che senso? Nel senso che chi passa stasera tra Real e Bayern, non dico che ha vinto la Coppa dei Campioni, ma insomma ci è molto vicino. Primo, perché di fronte non avrà più il Barcellona. Secondo, perché si troverà a giocare con un Chelsea decimato dalle squalifiche, 4 squalifiche pesanti, o comunque pesanti sicure, quelle di Ivanovic e di Ramirez, quella di Meireles forse rimediabile, quella di Terry potrebbe essere un vantaggio, perché Terry ieri sera ha certamente dato ragione. Mi immagino l'esultanza di Capello davanti alla TV quando l'ha visto espellere, no? Visto che Capello in fondo il posto l'ha perso per aver, da CT dell'Inghilterra, per aver sostenuto che per una serie di ragioni, ma per una in particolare, c'erano dei problemi di compatibilità. Lui l'ha voluto difendere, la federazione non era d'accordo. Insomma, credo che Terry alla fine per Capello abbia rappresentato il problema finale, ma quella è una parentesi. Di sicuro stasera ci sarà sia per Real Madrid che per Bayern un propellente in più. Per il Real è doppio, perché arriva dalla vittoria nel confronto diretto contro il Barcellona nella sfida di campionato di sabato, e poi perché lo ha visto riperdere ieri sera e Mourinho addirittura dal suo ex Chelsea. Ma è un propellente anche per il Bayern, perché la finale la giocherà sul suo campo, e anche il Bayern sa che giocare la finale sul proprio campo con un Chelsea dimezzato è un buon modo, no, per prenotare un'altra Coppa dei Campioni a tantissimi anni di distanza dalla precedente. Ci saranno molte riflessioni da fare sull'argomento, magari le faremo insieme più tardi, a proposito per esempio di Messi, che aveva portato il Barcellona in semifinale con un record di gol e con grandi prestazioni, e invece era stato già il esiziale a Londra, e lo è stato a maggior ragione ieri sera. Errore fatale a Londra, perdendo quella palla in dribbling che ha dato il gol di Drogba, errore fatale ieri sera sul calcio di rigore, cosa che poi gli è costato anche l'inesistenza da lì alla fine della partita. Sempre 1-1 nel frattempo tra Novara e Lazio, e allora detto che tra poco si tratterà di seguire con una certa tempestività non solo i finali Novara-Lazio, l'inizio del recupero del Torino contro la Regina, previsto per le 14:30. Il Torino quest'anno gioca, è abituato ormai a giocare a spezzoni, 20 minuti a Padova, no? I finali di quella partita recuperata e poi annullata e data vinta a Bolino in attesa del ricorso del Padova e quindi di una sentenza definitiva. Oggi questo frammento di tre quarti d'ora, e poi alle 3 invece il calendario normale del resto del campionato, eccezion fatta per le partite di Juventus e Milan, che invece si giocheranno in contemporanea alle 18. Notizia dell'ultima ora: Totti, che ieri sembrava indisponibile per Roma-Fiorentina, invece è stato regolarmente convocato perché questa sindrome influenzale è smaltita. Una serie di domande, ma soprattutto un bentornato a Marco Bellinazzo. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Marco, io partirei da una notizia. Avevamo già detto, l'ho ricordato anche ieri, che l'appuntamento del giovedì, per ragioni tecniche di calendario di campionato, sarebbe slittato per 2 settimane, cioè questa è la prossima, al mercoledì. E partirei da una notizia, e cioè da quella, da una notizia arrivata dalla Svizzera. Uno diceva, ma la Svizzera è un calcio minore, eccetera. Sì, è un calcio minore, no? Su questo credo che siamo d'accordo in ambito internazionale, però qualcosa che colpisce c'è sempre. Allora, la notizia arrivata 2 giorni fa è: la commissione licenze della Federcalcio Svizzera ha rifiutato il visto per partecipare alla prossima stagione a 11 club, 4 dei quali di prima divisione, Young Boys, Servette, Sion e Zurigo, principalmente per ragioni finanziarie. Le società coinvolte potranno presentare ricorso entro 5 giorni, cioè entro questa settimana. La commissione ha rifiutato inoltre la licenza a 7 club di seconda divisione: Bienne, Bellinzona, Chiasso, Étoile Carouge, Creens, Lugano e Winterthur. Decisioni sugli appelli saranno comunicate il 25 maggio. Allora, faccio presente agli ascoltatori, non a te, che, tolto il Basilea che ha appena vinto il campionato, Young Boys, Servezzi, Young e Zurigo, sarebbe come dire che togliamo in Italia la licenza a Milan, Inter, Fiorentina e Napoli, così vado a occhio. E quindi ti domando, vista la contiguità anche territoriale con la Svizzera, che cosa ti suggerisce una notizia come questa? Beh, il primo dato è che forse la Federazione Svizzera, essendo molto vicina territorialmente alla sede della UEFA a Nyon, tende ad applicare con molto rigore i dettami, i principi che arrivano dalla Federazione Europea e in particolare da Michel Platini. Il rigore finanziario applicato in questo caso, insomma, mi fa sorridere, ma è anche un bel segnale per tutto il movimento europeo. Io credo che poi da qui al 25 maggio, quando si tratterà di pronunciarsi in appello, la federazione, come dire, lascerà invece la possibilità alle squadre di giocare, ma è un segnale importante. Non mi risulta che le squadre svizzere, come dire, avessero un grosso diciamo debito o un deficit importante, però sì, è chiaro basta che meno da quelle parti, basta molto meno, basta meno. In proporzione, tra l'altro ricordiamo che la Federazione Svizzera è quella che ha penalizzato di 36 punti, e dico 36 punti, il Sion, sì, che tra l'altro è incappato anche in questo problema, perché il Sion lo scorso anno aveva di fatto schierato diciamo alcuni giocatori acquistati in una fase del mercato in cui non poteva acquistarli. E da lì ti interrompo solo un istante perché c'è un magnifico gol su punizione di Mascara, e quindi il Novara è passato in vantaggio per 2-1 sulla Lazio. Mancano 11 minuti più recupero alla fine, veramente un gioiellino di calcio di punizione al limite che ha scheggiato l'interno del palo e poi è andato, come si diceva un tempo, a morire dolcemente in rete. Chiedo scusa per l'interruzione. Assolutamente scusato. Quello che volevo appunto segnalare è che, a parte la vicenda molto complessa, il Sion si era permesso di rivolgersi alla giustizia ordinaria, alla giustizia, certo, svizzera. E per questo ha beccato 36 punti di penalizzazione della Federazione Svizzera. Ora penso a tutti i ricorsi a TAR e contro TAR che vengono fatti dalle squadre italiane per le minime sciocchezze, e di fatto, insomma, che in Italia esiste una clausola compromissoria per cui in teoria non ci si potrebbe rivolgere a organi, diciamo, di giustizia non sportivi, e di conseguenza è un altro segnale importante che viene dalla Svizzera. Sulla parte finanziaria mi verrebbe ancora da fare un'ulteriore riflessione legata evidentemente a come la UEFA intende poi applicare il fair play finanziario, perché queste licenze, ormai gran parte delle federazioni hanno adottato per rilasciarle criteri che si avvicinano molto a quelli che saranno quelli del fair play finanziario, sì, applicati poi da questa estate, e quindi è un segnale importante nell'ottica di diciamo valutare poi quello che accadrà quando le altre federazioni, a partire da quelle italiane, dovranno rilasciare le licenze per i campionati nazionali. Vedremo se saranno adottati parametri altrettanto severi. Il Barça si è suicidato, non ha perso, scrive Adolfo da Campobasso, e aggiunge poi Chiella. Beh, su questo non c'è discussione, basta fare il conto di pali e traverse. A Novara è rimasto, non sta suggerendo nient'altro, se non che la Lazio non riesce a reagire, e il pallino nelle mani di Novara, che adesso un altro calcio di punizione, sia pure da una posizione non pericolosa come quella di prima. 10 minuti alla fine più recupero, scarsi, e questo risultato che penalizza la Lazio. A proposito di UEFA, tu ne stai parlando, io non vorrei che, per come stanno giocando in questo periodo e per i risultati che stanno ottenendo Lazio, Napoli, Udinese, Inter, Roma, io non vorrei che la UEFA non decidesse questa battuta, non decidesse alla fine che le squadre italiane sono solo due, perché la terza tanto vale lasciarla a casa. C'è un tale equilibrio che io definirei con più precisione disequilibrio in questo momento in queste, esatto, squadre, che stanno da un lato rendendo molto piacevole diciamo seguire quello che accadrà da qui alla fine del campionato, appunto per la conquista di questo posto in Coppa dei Campioni, la vecchia Coppa dei Campioni, che tra l'altro è un posto, diciamo, che non garantisce la partecipazione ai gironi, no, ma rimanda al turno preliminare, e con le, diciamo, la grande competitività che hanno le squadre europee in questo momento, non so quanto appunto possa garantire l'accesso a quella tesoro che è la qualificazione per i gironi, perché leggendo appunto i bilanci delle società ci si rende conto di come effettivamente riuscire a qualificarsi per la Champions effettivamente cambia tutto. Ti do soltanto questo dato: la Juventus aveva, diciamo, nel 2010, quindi con un fatturato che si reggeva sul palmarès, insomma, sull'importanza del giro d'affari di questo club, di circa 220 milioni. Nel 2010-2011 siamo scesi a 170 milioni, perché evidentemente la mancata partecipazione alla Champions League comincia a farsi sentire, certo. E non a caso c'è stato bisogno di un aumento di capitale di 120 milioni per ripianare la perdita record della squadra juventina, che si è registrata appunto con l'ultimo bilancio una perdita di 95 milioni di euro. Altra palla gol per il Novara, che Caracciolo ha spedito tra le braccia del portiere Marchetti. Dunque, avviso per i naviganti. Io proseguirei questa conversazione con Marco Bellinazzo su questi temi, che sapete sono portanti non solo per il calcio, ma insomma nel nostro piccolo, per questo programma, per un certo periodo, e poi diciamo che dopo l'intervallo di metà trasmissione ci saranno come sempre i vostri interventi in diretta, magari anche prima, vediamo, quindi su Barcellona, campionato e su quant'altro. Tu hai cominciato dalla Juventus, allora ti chiederei metodologicamente di procedere così. Oggi ci occupiamo dei bilanci e quindi della situazione economico-finanziaria anche in prospettiva delle tre grandi. Facciamo Juventus, Milan e Inter in ordine di classifica. Il prossimo mercoledì ci dedichiamo al resto del gruppo. Alle altre. E tra l'altro, Gigi, scusami, pensa a come cambierà il programma delle squadre che in questo momento stanno concorrendo per il terzo posto, a seconda che si qualifichino o meno. Penso appunto alla Lazio, al Napoli, alla Roma, certo, all'Udinese. Magari l'Udinese, insomma, è più stabile perché ha programmi, diciamo, pluriennali basati sullo sfruttamento dei vivai, però diciamo è inevitabile che, qualora, diciamo, si arrivi al terzo posto, si progetteranno determinati incrementi nella qualità della rosa e quindi investimenti nel prossimo calciomercato. Viceversa, si passerà invece alla cessione dolorosa per molte squadre di alcuni big, e dalle parti di Napoli sanno questo cosa vuol dire. Certo, cambia e non cambia poco. Se cambia per le tre grandi, figurarsi cosa cambia per le forze intermedie, o comunque per quelle in immediato rincalzo. Si è partiti dalla Juventus, vogliamo completare il discorso che riguarda... Sì, quello che mi interessava è più che altro è provare a fare un confronto alla luce di una battuta che ha fatto Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Milan, la settimana scorsa durante l'assemblea che ha approvato il bilancio del Milan. Galliani appunto rifletteva sul fatto che generalmente in qualsiasi settore economico quelli che sono i big, le società, le aziende che possono definirsi leader in quel settore di solito guadagnano, mentre le più piccole arrancano. Nel calcio, in particolare nel calcio italiano, accade esattamente il contrario, per cui le squadre più blasonate, quelle che sono costrette a vincere, si ritrovano con bilanci in rosso. Finora questo non era un problema perché c'era sempre l'azionista di riferimento che ripianava il deficit, mentre invece le squadre minori in qualche modo riescono a cavarsela e, perché no, anche a chiudere qualche volta il bilancio inutile. E allora la riflessione era legata proprio al tipo di struttura dei bilanci, perché poi i numeri, cioè l'utile o la perdita, che è il numero finale del bilancio, non è che nasce per caso, non viene scritto così, ma dipende da una serie di fattori, evidentemente, che sono molto rigidi purtroppo per quanto riguarda i club, nel senso che le entrate sono quelle, sono di tre tipologie e non si riesce a farle crescere. Allora, i diritti televisivi sono la fonte principale, poi ci sono ovviamente i diritti, i proventi che arrivano dai diritti di marchio, quindi dal merchandising, e poi ci sono quelli relativi alle gare, no? Agli abbonamenti o ai biglietti. Allora, ti stoppo un istante perché vorrei rispettare, soprattutto in un giorno festivo, l'orario esatto per gli aggiornamenti dalle strade, e poi ripartiamo da queste tre fonti di introito rapportate in particolare alla Juventus. Allora, torniamo in onda con Marco Bellinazzo. Ci ha appena detto le tre fonti di introito per una società: i diritti televisivi, i diritti del merchandising, la biglietteria / abbonamento. Allora, sulla Juve, per essere rapidi, per quanto riguarda i diritti TV, nell'ultimo bilancio, quello chiuso al 30 giugno 2011, si è arrivati a 88 milioni e sono prevalentemente, anzi quasi integralmente, dovuti ovviamente ai diritti TV nazionali. Erano nella stagione precedente 132, proprio perché c'è questo, diciamo, dislivello legato alla mancata partecipazione alle competizioni, sì, europee. Sui ricavi commerciali sono 43 milioni, erano 45 l'anno precedente, quindi questo vuol dire che non si riesce ancora a sfruttare il marketing e il merchandising. Anche se, provo a interromperti un attimo, credo che la Juve possa contare quest'anno con l'effetto Volano, scudetto, certo mi rendo conto delle scaramanzie, ma insomma così dovrebbe andare a finire, questo dovrebbe avere un incremento forse anche notevole. Assolutamente, soprattutto perché si potrà poi contare sugli introiti legati alla Champions League, che certo, in ogni caso è stata già matematicamente conquistata. Interessante per invece il dato sui ricavi da gare, perché lo scorso anno, la scorsa stagione, la Juventus, che stava costruendo un nuovo stadio, ha incassato soltanto 11 milioni, erano stati circa 17 l'anno precedente, ed è chiaro che dallo stadio almeno 10-15 milioni in più la dirigenza juventina se li aspettano. Sulla voce invece i diritti TV per quanto riguarda l'Inter, passiamo alle due squadre di Milano, abbiamo questa situazione: 130 milioni ha incassato l'Inter, 116 milioni ha incassato il Milan. Anche qui l'effetto è dovuto a una circa 80 milioni a testa per quanto riguarda i diritti interni e a circa 35 milioni per quanto riguarda invece i diritti TV collegati alla Champions League. La cosa da segnalare da questo punto di vista è che questo tipo di ricavi è praticamente bloccato, e ricordiamo tutte le vicende, le polemiche che ci sono state nei mesi scorsi, le spaccature della Lega per la determinazione dei bacini di utenza e per la spartizione di una quota che comunque è rilevante, 1 miliardo, ma che deve sostenere tutto il movimento calcistico nazionale, non solo quello di Serie A. Certo. Per cui le big sono costrette a limitarsi a questi ricavi, e un altro dei problemi seri indicati da Galliani è che c'è una disparità con Real e Barcellona, che invece i diritti TV li vendono individualmente e incassano per questo tipo di voce di entrata circa 150-160 milioni all'anno. Una piccola interruzione perché il tempo è già scaduto. A Novara si sta giocando il recupero, manca a questo punto 1 minuto e 40 secondi. La Lazio ha avuto un'occasione notevole, perché sono saltati in tre praticamente soli davanti al portiere, nessuno è riuscito a sfiorare, a deviare questo pallone calciato da Ledesma su punizione lontano. Là il portiere ci è arrivato anche con qualche difficoltà, e adesso a 1 minuto e mezzo dalla fine c'è il rinvio dal fondo dal Novara, che potrebbe forse provare a rigustare l'ebbrezza della vittoria in una di queste ultime partite di Serie A, anche se Questa era una partita attesa, ma certamente per i novaresi, in attesa del congedo dalla A, quella più sentita sarà domenica prossima con la Juventus, tra l'altro alla presenza di Michel Platini, novarese d'origine e naturalizzato juventino per ovvie ragioni calcistiche. La prego. Ci sono poi le altre due voci, che per Inter e Milan si equivalgono per quanto riguarda i ricavi da gare, siamo circa 30 milioni. Dove il Milan spicca ed è sicuramente la squadra, la società che da questo punto di vista è più avanti, è per la voce legata ai ricavi commerciali. Sì. Se Juve e Inter da questa voce incassano 40 milioni, il Milan incassa oltre 80 milioni di euro all'anno. Però significa che riesce evidentemente a vendere bene il marchio Milan, sia agli sponsor che attraverso il merchandising. Evidentemente si deve fare però di più per cercare di incrementare questa voce, perché a meno che Galliani o altri dirigenti del calcio italiano non si inventino altre formule per aumentare i ricavi, queste voci di entrata sono piuttosto rigide. Novara batte Lazio 2-1, la partita è finita in questo istante, quindi Novara sale, si fa per dire, ma insomma sale, a 28 punti in classifica, la situazione rimane disperata, ma non c'è ancora nulla di aritmetico evidentemente che lo condanni grazie a questa vittoria. La Lazio resta ferma a quota 55 e a questo punto è raggiungibile tra poco, tra un paio d'ore, cioè quando la partita sarà finita, dall'Udinese, se dovesse riuscire a vincere con l'Inter, è avvicinata dal Napoli, che però gioca una partita molto difficile a Lecce, e tra un po' arriviamo a questi argomenti agonistici. Marco. Allora, abbiamo visto le note piacevoli, cioè certo, i soldi incassati, i soldi che entrano, poi vediamo che permettono allora al Milan di fatturare 266 milioni, all'Inter 262, alla Juve 170. Ripetiamo, sono gli ultimi bilanci, il Milan l'ha appena approvato la settimana scorsa, quello chiuso al 31 dicembre 2011. Arriviamo ai costi, e qui arrivano invece le note dolenti. Se il Milan fattura 266 milioni di euro, ha dei costi legati semplicemente alla gestione degli atleti pari a 238 milioni. La Juventus aveva un fatturato alla fine della stagione 2011 di 170 milioni e aveva costi di gestione degli atleti di 173 milioni. Però. L'Inter invece aveva dei costi di gestione degli atleti di 232 milioni rispetto a un fatturato di 262. Ora, cosa intendiamo per costi di gestione degli atleti? Ovviamente gli ingaggi, i premi, per certo, esempio Milan ha pagato 25 milioni di premi per vista la vittoria dello scudetto, e c'è poi una voce più tecnica ma molto rilevante, è quella degli ammortamenti. Ora, significa che in base al costo del cartellino, al prezzo pagato per acquistare i giocatori, in base alla durata del contratto viene imputato quel costo annualmente nel bilancio, e quindi indica sostanzialmente la spesa per i giocatori acquistati nel calciomercato, divisa per anno. Ecco, al momento questa spesa è di circa 44 milioni per il Milan, di 52 milioni per l'Inter e di 46 milioni per la Juventus. Questo è un indice che segnala il fatto che magari ultimamente si è cercato di acquistare giocatori a parametro zero e sconti dell'ultima ora, ma in passato invece i giocatori sono stati acquistati con lauti compensi, in particolare per quelli dati ai procuratori, ma questa è un'altra storia. Questo è un altro capitolo. E tutto questo ci porta alla riga finale, che fa sì che appunto il Milan debba ripianare 67 milioni e la Fininvest ha messo questi soldi, l'Inter 83 milioni e la Saras ha provveduto, la Juventus ha chiuso, come ricordavamo all'inizio, il bilancio 2011 con meno 95 e c'è stato un aumento di capitale garantito dalla Exor di 120 milioni, aumenti che dall'anno prossimo, dalla prossima stagione, non si potranno più fare in virtù delle regole del fair play finanziario. Questo almeno è scritto sulla carta, poi vedremo come sarà applicato, ma se la UEFA dovesse in qualche modo ispirarsi alla Federazione Svizzera, abbiamo visto che sarà piuttosto rigida e farà rispettare queste regole. Quindi la sintesi finale, se posso permettermi, qui non stiamo in Svizzera, stiamo leggermente più a sud, però è anche vero che le regole esistono e non sono le regole italiane in questo caso, sono regole europee. Se l'Europa, l'Europa del pallone in questo caso, l'UEFA, mantiene i suoi propositi, mantiene quello che è stato annunciato, sbandierato e progressivamente destinato a entrare in vigore, dall'anno prossimo questi bilanci, queste negatività, queste passività di bilancio non sono più proponibili nemmeno per le grandi, per nessuno. Il limite è di 45 milioni ogni triennio, e quindi limite di rosso che accettato da, certo, dalla UEFA, salvo che poi si spendano soldi per gli stadi piuttosto che per la gestione dei vivai, ma altro discorso. Questo è un altro discorso. Dei rossi legati semplicemente, come abbiamo visto, alla voce gestione atleti, di questa portata non saranno tollerati, come certo, non saranno tollerati per le altre squadre, no, insomma, certo, per le altre squadre europee. I competitor europei, come si dice. È evidente però che si dovrà cambiare registro o diciamo aumentare quella voce di ricavi che abbiamo detto, ma che ricordiamo sono piuttosto rigidi, per cui è difficile che il Milan possa arrivare, non so, a 200 milioni dalla voce legata al merchandise o agli sponsor, non potrà arrivare a 100, ma non di più. È chiaro, certo, che si deve abbattere i costi. Meno 95 la Juventus, meno 87 l'Inter, se ho capito. 83 e meno 67 il Milan, dal prossimo anno devono diventare meno 15. Se vogliamo partire dal fatto 45 diviso 3 diventa meno 15. Dura, non proprio una passeggiata di salute. L'Inter per esempio ha cercato di prepararsi, no, in questi anni, e i risultati, ahimè, si sono visti. I tifosi interisti non è che sono contentissimi, sono, certo, della nuova austerity voluta da Moratti, però è inevitabile accettare un periodo in cui la squadra viene rifondata con dei giovani, con dei giocatori di prospettiva, e poi viene alleggerita di contratti troppo onerosi. Marco, io ti ringrazio, ti faccio anche gli auguri, perché oggi mi risulta che sia San Marco. Grazie. E non solo il 25 aprile. Io volevo, Gigi, scusami, solo aggiungere che chi vuole ovviamente poi consultare questi numeri saranno sul blog, perché mi rendo conto che è difficile un po' seguirli per radio, quindi li troveranno sul blog Calcio e Business del Sole 24 Ore. Tutto qui, insomma, volevo segnalare questa ulteriore opportunità, perché, certo, se si sfugge, diciamo, ai calcoli, si riuscirà sempre meno a vincere anche sul campo, e questo ti assicuro, le dirigenze rossonere, bianconere e interista ne sono assolutamente consapevoli. Certo, senti quest'ultima notizia, ultima ora, Consiglio d'Europa, la FIFA indaghi sulle elezioni di Blatter all'Assemblea parlamentare. La FIFA deve svolgere un'indagine interna approfondita ed esaustiva sull'elezione del suo presidente Blatter, per verificare se abbia approfittato della sua posizione per ottenere vantaggi indebiti per se stessa e per potenziali elettori. E quanto chiede l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel rapporto sull'etica nello sport, approvato oggi quasi all'unanimità, 95 su 98. Una commissione nominata dallo stesso Blatter, ovviamente. E quindi questo, auguri a questa commissione. Auguri alla commissione. Diciamo che l'auspicata fine, no, prima o poi, della carriera di Blatter potrebbe anche avvicinarsi. Si sta avvicinando, e Platini non vede l'ora. A lunghe falcate si sta avvicinando. Grazie a Marco Bellinazzo, noi ci sentiamo tra poco. Allora, ricapitoliamo, dopo il 2-0 di ieri, no, il 3-0 ieri del Cagliari al Catania, la vittoria per 1-0 dell'Atalanta sul Chievo, poco fa si è conclusa Novara-Lazio con la vittoria del Novara per 2-1, dunque il Novara sale a 28 punti in classifica e stacca sempre di più il Cesena dall'ultimo posto, anche se questo non varrà ad evitare la retrocessione, mentre la Lazio si ferma a quota 55 e potrebbe essere raggiunta dall'Udinese, Udinese che gioca insomma, la partita comincia alle 3 e le partite delle 3 sono Lecce-Napoli, Palermo-Parma, Roma-Fiorentina, Siena-Bologna e Udinese-Inter. Alle 18 invece sono in programma Cesena-Juventus e Milan-Genoa. Nel frattempo, visto che i vuoti vanno riempiti, è in corso il recupero del secondo tempo di Torino-Reggina, sospesa qualche sabato fa per un nubifragio che si era battuto su Torino, con il Torino in vantaggio per 1-0. Il risultato è ancora quello al momento, anzi sta attaccando il Torino, siamo al settimo minuto del secondo tempo e, ripeto, il punteggio è sempre ancora di 1-0. Qualche vostro intervento in diretta. Luigi Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi. Collegarmi al suo intervento dopo l'eliminazione del Milan da parte del Barcellona. La percentuale tra gol segnati rispetto a occasioni avute nel caso del Milan è già alta, e col Chelsea ancora più alta, e quindi mi chiedevo se è meglio avere attacchi stellari, giocatori prolifici, oppure difese ermetiche con squadre messe bene in campo, visto che la cosa della bilancia sembra pendere a favore di quest'ultime. E così, a mo' di battuta, volevo dire se il buon Bugio di Mosca avesse coniato qualcosa, una frase tipo rigore, cioè quando te lo fischia in occasione del genere, quando cerchi di segnare ma la palla non la metti mai dentro. Grazie. Sì, è una vecchia regola. A calcio si gioca in molti modi. Diciamo che se alla fine di queste due partite fosse passato il Barcellona, probabilmente l'estetica del calcio se ne sarebbe giovata, non solo perché in finale andava una squadra più forte, ma perché se ci mettiamo tutte le occasioni create, i quattro legni colpiti, due all'andata e due al ritorno, e insomma diciamo una situazione, anche una sensazione estetica, no? che il suo posto lo tiene pur sempre, ma insomma mi sembra che i dubbi fossero pochi. Il calcio, per fortuna, perché sennò vincerebbero sempre i più forti, e quelli che giocano meglio, il calcio ci ha abituati a queste cose da secula seculorum, e quindi poi la sorpresa c'è, ma non può essere una sorpresa assoluta. Dario scrive da Napoli: quello del Chelsea è il tipico catenaccione all'italiana, e ieri si è dimostrato, perché il calcio è il gioco più bello di tutti. Ed è vero, è il gioco più bello di tutti, perché anche tra Davide e Golia sappiamo che ogni tanto può vincere Davide, dal punto di vista tecnico, non certamente da quello fisico, perché quelli del Chelsea sono tutti Marcantoni e quelli del Barcellona invece un tantino meno. Che il Barcellona quest'anno fosse in flessione si era visto dall'autunno. Poi aveva avuto un'eccellente ripresa primaverile, sembrava preludere a un grande finale di stagione, ma c'erano delle crepe in questa squadra che un po' gli infortuni cronici, e penso allo sventurato Abidal e a Viglia, e un po' altri infortuni estemporanei, e io credo soprattutto questo problema agli adduttori di Messi che ha accusato durante il primo tempo della partita di Londra col Chelsea, credo che siano stati abbastanza determinanti, oltre poi evidentemente a un calo di tutta la squadra. Fino a non molto, diciamo che fino alla finale dell'anno scorso, stravinta con lo United, Messi era il valore aggiunto di questo Barcellona. Quest'anno invece Messi è stato l'uomo che ha preso per mano il Barcellona in tantissime occasioni e l'ha portato fin lì. Purtroppo per il Barça l'ha mollato proprio sul più bello. Giulio ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sono Granzini, complimenti per la trasmissione. Allora, già un po' risposto alla mia domanda, volevo fare una considerazione su Barcellona. Grande squadra, grande gioco, però mi sembra che secondo me sono molto forti con i deboli e un po' più deboli con i forti. Si trovano sempre in difficoltà, non sanno mai cambiare il sistema di gioco quando hanno di fronte Milan o vedi Chelsea ultimamente. Beh, grande possesso di palla, traverse, pali, però in finale ci va il Chelsea. Secondo me grandi campioni, ma non sanno mai cambiare il sistema di gioco. Infatti loro quel calcio giocano, che è un calcio fantastico, che ogni tanto diventa anche improduttivo, ma improduttivo perché poi sbagli sotto rete. Ma non mi può dire che non funzioni il modulo se giocando due partite segni quanti gol ha segnato il Barcellona? Due, sbagli un rigore, prendi un certo numero di pali e sbagli 3-4 gol davanti alla porta. Vuol dire al massimo che devi imparare a essere più freddo sotto rete, ma non vuol dire che quel gioco non funzioni. Dopodiché il bello del calcio è che ieri sera esca il Barcellona e rimanga dentro il Chelsea, il bello del calcio tra virgolette, evidentemente. Però è anche vero che ci sono quella di, non di ieri soltanto, ma di ieri e di Londra, è proprio una di quelle volte in cui riconfermare per l'ennesima volta il detto che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci viene benissimo proprio, perché come ci ha visto in questi sei giorni ha dato il Barcellona, insomma è un miracolo addirittura di vista. Dopodiché se esce con il Chelsea, semmai il Barcellona è debole con i deboli, mi lasci dire, no? Come sarebbe stato col Milan. Stiamo parlando di una squadra che in questi anni aveva perso una partita con l'Inter, se no ha puntualmente schiantato anche squadre, so che si chiama Real Madrid, aggiunga lei l'elenco, completi lei l'elenco. Dunque, bordate di fischi da parte della curva sud dell'Olimpico all'ingresso in campo della Roma per il riscaldamento in vista del match con la Fiorentina. Discreta accoglienza dunque per giocatori e per Luis Enrique, cori soltanto in favore del capitano Totti, e applausi per Burdisso, assente da tempo per un lungo infortunio, che prima del fischio d'inizio si è recato nel settore dei distinti per firmare autografi. Nunzio ha chiamato la provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. buongiorno signor Granzini. Dica. Niente, io intanto volevo esordire con una battuta, visto che a me Di Matteo è molto simpatico, l'ho soprannominato il Baron Di Matteo, visto che ha giocato come giocava il Padova, diciamo di Rocco, insomma, un po' assomiglia un po' il gioco. Ma anche, però... anche certi Milan, perché io ricordo un Milan Leeds, finale di Coppa delle Coppe del 73 a Salonicco, in Grecia, vinta dal Milan, una partita fotocopia di ieri sera in cui avrebbero strameritato gli altri, invece quella partita vinse il Milan. Rocco, il Milan di Rocco giocava così quando era un Milan piccolo o un Milan medio, quando invece era un grande Milan, il Milan dava 4 gol in finale all'Ajax, che stava nascendo, non era ancora la grande Ajax, ma era quasi la grande Ajax, o il grande Ajax, dava 2 gol in finale al Benfica, eccetera, eccetera. Dica. Perfetto, e niente, volevo concludere con un'altra battuta, che non è proprio una battuta, è un dato di fatto, che diciamo che quello che mi sembra 3-4 anni fa Ovrebo aveva tolto il Chelsea, il destino ha ridato, insomma. Un sì, po' così, sì, questo è certamente vero. Quella sera di 3 anni fa avrebbe meritato il Chelsea la qualificazione, ma nettamente, e stavolta altrettanto nettamente la meritava il Barcellona, è andata in maniera diversa. Questa mail è carina, Francesco Esposito è firmato. Ho scoperto da poco il famoso mondo dei podcast e questo mi permetterà di seguirvi ancora con maggior regolarità. Sto sperimentando una strana dissociazione temporale perché l'ascolto in differita e stamattina, riascoltando per appunto la puntata andata in onda ieri prima di Barcellona Chelsea, mi sono chiesto se sarebbe una sfera di cristallo, perché aveva anticipato quasi esattamente come sarebbe andata la partita e soprattutto mi è piaciuta e ho riscontrato la verità, la veridicità, scrive, della metafora del granellino nell'ingranaggio che poi si può grippare, più è perfetto e più si può grippare. Francesco, grazie, capita ogni tanto di prenderci e capita anche spesso e volentieri invece di non prenderci e di fare magari delle previsioni completamente sballate. Quarto d'ora del primo tempo, Torino Regina è sempre ancora del secondo tempo, Torino Regina è ancora sull'1-0. Noi facciamo l'ultimo intervallo di oggi per l'aggiornamento del traffico. Torniamo in onda. Sì, questo parziale recupero di B ha passato il quarto d'ora, Torino 1 Regina 0. Andrea Ruggeri domanda da Milano: ma secondo lei esiste una relazione tra la posizione in classifica di Cesena e Novara e il campo sintetico? Cioè, sono davvero, domanda, le due squadre più scarse del lotto, tant'è vero che sono già praticamente retrocesse, oppure giocare in modo alternato il 50% in una stagione su una superficie, il 50% su un'altra, magari non è decisivo ma è penalizzante? Questa è una buonissima domanda da girare a un tecnico, a un preparatore, a qualcuno del mestiere, così a spanne credo che sia una risposta abbastanza difficile da dare. È però un quesito da porsi, soprattutto nella prospettiva di San Siro che diventa sintetico, perché questo è stato uno degli annunci, no, non ancora un annuncio, ma insomma una delle indiscrezioni dei giorni scorsi. Dal prossimo anno San Siro dovrebbe diventare almeno a metà sintetico, cioè un misto di erba vera e di erba artificiale. Mauro ha chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo parlare della partita di ieri sera tra Barcellona e Chelsea. Ho sentito in televisione dei commenti su, anche abbastanza duri, su anticalcio. D'altronde io penso che ognuno possa giocare con le armi che ha a disposizione, quindi il Chelsea secondo me non ha rubato niente. No, dal punto di vista del Chelsea no, l'anticalcio ieri sera l'ha solo fatto quell'idiota di John Terry, l'unico. Per il resto il Chelsea non ha fatto nessun anticalcio, credo, mi pare che lei sia d'accordo su questo. Il calcio è quello, anche se puoi solo difenderti, ti difendi e basta. D'altronde contro il Barcellona uno non è che può d'altronde giocare ad armi pari, se no viene surclassato. Certo. John Terry ha commesso una cappella enorme, perché in quel momento lì la partita era ancora in bilico e poteva benissimo anche andare poi come è andata a finire realmente, però non puoi lasciare la tua squadra in 10 e secondo me dei 4 è l'unico che giustamente salta la finale. Dico che comunque il Barcellona non è alla fine di un ciclo, perché lo può ricominciare avendo dei giocatori molto giovani, però si vedeva già anche dalla partita col Milan che era molto sulle gambe e faceva fatica a riproporre il calcio che l'ha reso famoso in questi anni. Non so cosa ne pensa lei, l'ascolto per radio. La penso assolutamente come lei, la penso in fotocopia. Il Barcellona quest'anno è stato a lungo tenuto, non in piedi, è tenuto al vertice dalle prodezze di Leo Messi, che non a caso ha segnato una quantità industriale di gol e che ha inciso nel Barça molto più di quanto non incidesse in passato, che è positivo per il rendimento di Messi, ma è negativo evidentemente per il Barcellona, che non era più lo stesso. Poi è chiaro che stiamo sempre parlando del Barcellona e quindi di una dimensione altissima, però mi pare che questo sia... Per dire la grandezza di Messi, almeno io la penso così, la grandezza di Messi è la seguente: non sta bene, perché lo si vede, no? L'affondo sparato con conclusione eccetera, palla a piede, lo slalom eccetera, l'avrà forse tentato una volta ieri sera, ma fino in fondo nemmeno, quindi evidentemente deve, come dire, limitare il più possibile le accelerazioni. E in quelle condizioni, dopo aver sbagliato un calcio di rigore ed essere palesemente destabilizzato, cioè era perso, no? Lo si vedeva, ha sbagliato palloni molto gravi per lui, eppure in quelle condizioni, anche ieri sera, credo il peggior Messi di stagione, o il peggior Messi, non dico di tutti i tempi, ma quasi, con il Barcellona è riuscito a mettere la palla gol a Iniesta del 2-0, perfetta, e a colpire comunque un palo nel finale, la traversa sul rigore, ma un palo nel finale sull'unico guizzo vero avuto. Io direi che Di Matteo merita un minimo di vetrine e di ribalta per l'impresa che ha compiuto il suo Chelsea. Lo sentiamo. Bisogna sempre cercare di tirar fuori il meglio dei giocatori che uno ha, e siamo molto felici di essere in finale adesso. Sì, un po' di fortuna ci vuole per arrivare in finale di una Champions, però non dimentichiamo che 3 anni fa la fortuna stava da parte del nostro avversario, e quindi oggi stava dalla parte nostra, e l'ho detto prima della partita in conferenza stampa che per qualificarci ci voleva un pezzico di fortuna. Mi sento molto tranquillo, la posizione mia, sono molto felice di come stanno andando le cose, poi la società prenderà le loro decisioni quando sarà il momento giusto. Alla faccia del pizzico di fortuna, caro Di Matteo, alla faccia proprio del pizzico, ma perfetto, va bene così, è giusto. È tutto giusto così. Sentiamo cosa ci propone per il 25 aprile Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 aprile 1956. Vittoria da incorniciare per la nazionale allenata da Alfredo Foni. A San Siro, in amichevole, gli azzurri dominano il Brasile, rifilando a Gilmar, Dialma e Nilton Santos e Didi un clamoroso 3-0. Foni schiera 2 juventini, il portiere Viola e il capitano Boniperti, un sampdoriano Bernasconi, un genoano Carapellese e 7 calciatori della Fiorentina di Bernardini, lanciata verso la conquista dello scudetto. I Viola in campo contro il Brasile sono Magnini, Cervato, Chiappella, Segato, Gratton, Montuori e Virgili. Il protagonista assoluto dell'esploit di San Siro è proprio Virgili, che segna i primi 2 gol, le sue uniche reti in nazionale, e propizia l'autorete del 3-0 di De Sordi. Beppe Virgili, detto Pecos Bill, tuttora vivente a Firenze, anche se friulano d'origine, tuttora vivente, razza Piave, storica, tuttora vivente in Santa Croce a Firenze. E direi ha molto abbattuto dopo questa sconfitta di Novara, ci sta girando male tutto, nel primo tempo abbiamo creato molte opportunità, ma non eravamo lucidi, e se non le sfrutti poi non si va da nessuna parte. Bravo anche Fontana, cioè il portiere Novara, in un paio di occasioni, io non saprei con chi prendermela, ma avremmo anche potuto vincere questa partita con un po' più di freddezza. Peccato che sia una fase in cui non ci sta girando bene. 23esimo, cioè quindi metà della ripresa ormai tra Torino e Regina, punteggio ancora fermo sull'1-0 maturato nel primo tempo della partita di 3 settimane fa. Questo vi ho già detto che è un una coda, un recupero. Ho tante vigilie da proporvi, no? Vigilie immediate ormai, perché si sta per giocare, ma insomma io credo che la principale potrebbe essere la vigilia della Juventus verso Cesena. E allora sentiamo Conte. Chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buon campionato, ma non ha fatto la storia, e questo per noi deve essere di uno stimolo feroce per cercare di centrare il traguardo, l'obiettivo, il sogno. Dobbiamo sempre tenere ben impresso in mente quello che ci ha portato a fare fino ad ora una stagione straordinaria. Cosa? L'umiltà, il sacrificio, il lavoro, l'abnegazione, la dedizione, la voglia di aiutarsi uno con l'altro, la voglia di pensare con noi e non con l'io. Se queste celebrazioni dovessero farci mutare, me per primo, di una virgola, significa che non siamo pronti, significa che si tornerebbe indietro, ecco. Siamo in chiusura, Franco Piantanide in redazione, grazie anche a Nicolò Rinaldi in regia. Torino Regina 1-0, esattamente alla metà del secondo tempo. Tra poco iniziano gli altri appuntamenti di calcio della giornata, di cui parleremo regolarmente domani. Buon pomeriggio.